Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Eccola, Eclettica anche per quest'oggi. In compagnia di Giulio Caperdoni, come tutti i giorni fra le 19 e le 20, e voi dall'altra parte degli apparecchi radiofonici lì, attenti all'ascolto, magari di fronte anche alla tastiera di un computer con cui scrivere a Giulio at radiorockfm.com, indirizzo da utilizzare anche per scrivere alla lista nera o per farmi sapere i vostri pensieri, che magari poi potrebbero essere condivisi con tutti gli altri all'ascolto. La nostra famiglia è composta di mio padre, mia madre, di me e di Davide, mio fratello minore. Mio padre è un uomo assai colto, di molto spirito, spesso anche finemente ironico. Ma più tardi mi accorgerò che questa è la sua unica arma per difendersi e celare la sua fondamentale timidezza. Egli ha una predilezione affatto particolare per la letteratura inglese, trovando in essa, a prescindere dai valori artistici, doti di virilità e di fermezza che non si riscontrano in alcuna altra. Egli ammira i personaggi delle opere inglesi, anche con quel tanto di convenzionale che tutti essi hanno, come si ammira in genere tutto ciò che noi non potremmo mai essere, e perché questi modelli sono immensamente lontani da quelli che egli vede giornalmente per le nostre strade. Questo era l'incipit di Un ragazzo da altri tempi, di Silvio D'Arzo. Thank you. second to see me. In D.C., I was 400 miles behind. Backstage pass in my hand, giving you my heart was my plan. I wish I could tell you robot, you're our last hope. Red wire, blue wire, black is usually the ground. So much pressure. Pressure. He'd been talking about it, but I didn't take him seriously. Thank you. Eclettica è come io intendo la vita. Libera, unica, curiosa, non banale, ispiratrice di riflessioni ed emozioni, capace di osare. Grazie per la compagnia bella e di qualità. Un saluto, Sabrina. Avreste voluto che non leggessi queste parole? No, non avrei potuto non leggere un elogio di questo stampo. Eclettica che è cominciata quest'oggi con Cat Power, l'unico vero nuovo brano estratto dal suo ultimo jukebox, brano dal titolo Song to Bobby, un po' di Laniana direi. Get Well Soon invece è il pezzo che si è appena chiuso da Berlino. Get Well Soon, un nome che sta caratterizzando in queste settimane Eclettica, e lo state facendo anche voi scrivendone a Giulio @radiorockfm.com e sottolineando come questa canzone vi piaccia. Canzone che si è appena chiusa ed è intitolata I Sold My Hands for Food, So Please Feed Me. Per proseguire ora con un nuovo album, finalmente l'album di lunga durata del trio di Ivrea di nome Drink to Me, album intitolato Don't Panic, Go Organic, che esce per la Mid Finger e dal quale vado ad estrarre proprio la traccia che lo apre, Dancing on TV. Let's get dancing straight. Come on, watch it on TV. Same pictures of the scene. Cooking my brain on the beach. Let's go dancing straight. Come on, watch it on TV. Same pictures of the scene. Cooking my brain on the beach. Let's go dancing straight. Come on, watch it on TV. Same pictures of the scene. Let's go dancing in the street. Come on, watch it on TV. Same old pictures of the sea. Keep my brain on the beach. Let's go dancing in the street. Come on, watch it on TV. Same old pictures of the sea. Keep my brain on the beach. Let's go dancing in the... Il signor Tobia Corcoran dirigeva da più di 20 anni il premiato Collegio Minerva. E fin qui niente di strano, d'accordo. Centinaia di persone dirigono da più di 20 anni un premiato collegio. E nessuno si prende la briga per questo di indicarli per strada con il dito. A meno che proprio non si decidano a uscire un bel giorno portando la giacca a rovescio. Ma nessuno può dire, in coscienza, di avere mai incontrato il signor Tobia Corcoran con la giacca indossata a quel modo. Il suo lato strano era un altro. Aveva in testa soltanto un'idea. Questo era l'incipit di Una storia così, di Silvio D'Arzo. My life to save people I hate for reasons I don't quite understand. Gotta go!